la causa dei miei guai. È una schiavitù, ti prego resta, ma prendi e te ne vai. Tutto mi parla di te. Da quando mi hai lasciato non riesco più a trovare un perché. Da quando mi hai lasciato non riesco più a capire com'è. A te ma sto con lei, dimmi tu come stai senza di me. Da quando mi hai lasciato non riesco a immaginare che te. Io non ci credo che stai bene, che non ti senti sola, che quando c'è lui sotto le lenzuola, perché sei già com'era stare insieme senza catene, quando uno sguardo sostituiva ogni parola. Io non ti so spiegare il male che fa, ritrovarsi con il cuore a metà, che ci invidiava tutta quanta la città, ora anche stando fermo non ho più stabilità. La fragilità, la tua verità, la mia priorità, la felicità nell'unicità dell'intimità, lo sai anche tu che nessuno ce la ridà, per questo sto scrivendo ste parole con difficoltà, perché è brutto fare i conti col presente, che speravo avesse il tuo nome ma sei assente. Tutto è distrutto e c'è una cosa che spaventa, che cerco di ricostruire e mancano le fondamenta. Da quando mi hai lasciato non riesco più a trovare un perché. Mille domande, nessuna risposta, ultimo giro, ora si scende dalla giostra. Da quando mi hai lasciato non riesco più a capire com'è. Com'è che sei, com'è che vivi, com'è che non chiami, com'è che non hai più posto dentro a queste mani. Ora che non ci sei, penso a te ma sto con lei, dimmi tu come stai senza di me. Da quando mi hai lasciato non riesco a immaginare che te. Dammi ancora una chance, basta una parola. Sola, dammi ancora una chance, basta una parola. Da quando mi hai lasciato non riesco più a trovare un perché. Mille domande, nessuna risposta, ultimo giro, ora si scende dalla giostra. Da quando mi hai lasciato non riesco più a capire com'è. Com'è che non hai più posto dentro a queste mani? Ora che non ci sei, penso a te ma sto con lei, dimmi tu come stai senza di me. Da quando mi hai lasciato non riesco.